известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Sento di non aver corrisposto, da questo punto di vista, alla spinta di innovazione che c'era e di non averlo fatto a sufficienza per un riflesso che io considero un valore, ma può darsi che mi sbagli. Il mio riflesso è naturalmente, qui conta la formazione e l'educazione di tutti noi, il tentativo di tenere uniti. Oggi Carlo Azeglio Ciampi, in un'intervista della quale lo ringrazio moltissimo, riferendosi proprio alla nostra comune esperienza di governo, dice che una delle mie caratteristiche è questa. Io cerco sempre di tenere uniti, poi spesso, come succede a chi cerca di tenere uniti, è più difficile farlo. E allora io credo, da questo punto di vista, però, che questa spinta all'unità abbia come suo contrappeso una solidarietà. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi è stata la giornata del grande abbandono, no? Dimissioni di Walter Veltroni dalla direzione del Partito Democratico, che si sono consumate in diretta televisiva con molta emozione, molta partecipazione da parte di chi ci ha creduto, anche con un certo sollievo da parte di chi invece identificava Veltroni con il male primario. Ma insomma, quello che va in soffitta insieme a questa esperienza veltroniana è anche un grande parallelismo, e noi, proprio per specifico della trasmissione, a questo vogliamo guardare un momento con qualche riflessione. Grande parallelismo che nel corso praticamente dell'intera passaggio di Veltroni dal Partito Democratico, dalla fondazione fino a oggi, nell'anno e mezzo circa che l'ha contraddistinto, ha sempre teso un filo rosso tra la corsa e anche gli appuntamenti elettorali, anche se con esiti ben diversi, di Veltroni nel Partito Democratico con Obama e l'altro Partito Democratico, quello che negli Stati Uniti d'America poche settimane or sono si è ripreso un po' tutto, a cominciare dalla Casa Bianca, ma in assoluto con vero e proprio potere americano. Fatti parte del problema anche naturalmente la crisi e i grossi problemi da risolvere. Allora, quello che vogliamo provare a discutere è un po' se questa forma di pensionamento anticipato tocca anche questo parallelismo, questo forte tentativo di connessione, fortemente emozionale, emotivo, su cui addirittura, con, ricorderete, agli esordi, identità di slogan, rimandi continui, una denunciata aperta ammirazione di Veltroni nei confronti di quello che Obama stava facendo dall'altra parte dell'oceano. Abbiamo chiamato Guido Molteto, che è il capo della redazione esteri del quotidiano Europa, ma soprattutto è anche l'autore di un libro intitolato Barack Obama, la rockstar della politica americana, perché si sa, poi le rockstar, no, cadono, no, come stelle cadenti, e qui abbiamo assistito alla caduta di una rockstar, per quanto nostrana. Buon pomeriggio Guido, come stai? Grazie, bene, grazie. Allora, c'è stata questa insistita corsa parallela, soprattutto voluta, naturalmente caldeggiata dalla provincia dell'impero che poi siamo noi, insomma, ma Veltroni per tante volte non ha fatto mistero di aver avuto l'intuizione, di sentire che quello era il modulo giusto, e noi abbiamo messo in testa del programma questa piccola parte, piccolo estratto del suo discorso, in cui parla ancora una volta di unità, di solidarietà, ovvero di quella terminologia che in un certo senso è sua, ma è anche mutuata poi, insomma, dai grandi successi recenti di Obama. Proviamo a riflettere un po' su questo discorso, ovvero se tutta l'operazione in un certo senso di importazione dell'immaginario è stata forse un po' fallace, un po' illusoria, un po' elitaria. Che cosa ne dice Guido? Ma un parallelismo, secondo me, tra l'esperienza americana intorno a Obama e quella intorno a Veltroni non è tanto nei personaggi quanto nella spinta delle persone che hanno creduto nell'uno e nell'altro. Io penso a quelli che hanno partecipato in Italia alle primarie del Partito Democratico, oltre 3,5 milioni di persone che hanno votato per Veltroni, e a tutto quello che si è mosso in America intorno a Barack Obama durante, certo, le primarie, certo, e dopo. E qui però finisce un attimo, secondo me, il parallelismo, nel senso che Obama ha messo a frutto anche, e sta mettendo a frutto anche da presidente, quel patrimonio di relazioni, di contatti con la miriade di persone che l'hanno sostenuto, mentre Veltroni ha commesso, secondo me, il grande errore e quello è fondamentale, di non aver coltivato quella enorme platea di persone che avevano creduto nella sua scommessa, l'avevano sostenuto. Non c'è stato nessun tentativo di sistematizzare sotto forma, che ne so, di banca dati, di contatti. Cioè, Guido, questo grande richiamo che qualcuno magari un po' impropriamente ha battezzato come post politico di Obama, nel senso che andava a pescare addirittura appassionati sostenitori o gente di ritorno alla politica in aree insospettabili, e che forse appartiene un po', no, almeno all'origine del Partito Democratico, che però poi è prepotentemente rientrato, mi sembra, nello scenario tradizionale e un po' affaticato della politica italiana. È così? Sì, è quello che intendevo dire. Certo. Io penso che poi alla fine, poi quando si abbandona quel tipo di terreno, come ha scritto oggi Ferrara in maniera abbastanza brutale, si va da Obama a Tanassi, il leader socialdemocratico degli anni 70, e le dispute all'interno del Partito Socialdemocratico Italiano, che era un mini partito, appunto, che era un po' lo zimbello della partitocrazia di allora, con le sue divisioni interne, le lotte di potere, eccetera. Quindi secondo me l'aver abbandonato quel terreno che era molto promettente, nel quale, appunto, quello della partecipazione, del coinvolgimento, anche quello delle parole d'ordine, no? Questo richiamo che sì, ha tanto criticato inizialmente, quando si diceva troppo fumo, troppo, ma di Obama, che parlava di unione, di empatia, di insieme, della casa unita, a cui poi, insomma, ha fatto riferimento a lungo anche Veltroni, ma vogliamo dirlo, con effetti assai meno gratificanti. Perché? Perché era meno bravo? Perché il messaggio è meno italiano? Che dici? Sì, beh, certo, meno bravo, questo è indubbio, perché poi Obama è un campione dal punto di vista della comunicazione, dell'empatia che è in grado di suscitare con qualsiasi platea, sia quella fisicamente a lui vicina, sia quella che lo vede attraverso la televisione e altri mezzi di comunicazione. Veltroni in Italia probabilmente è quello più capace, ma in Italia, diciamo, non è un grande campionato quello italiano da questo punto di vista. Tuttavia aveva delle chance, ripeto, se avesse messo in moto, non lui personalmente, ma diciamo almeno il suo gruppo intorno a lui, un qualche meccanismo partecipativo dal basso, io probabilmente penso che non si troverebbe in queste condizioni come si trova adesso. Anche il suo stesso abbandono ha il sapore di, diciamo, di una resa dei conti con le oligarchie, ma tutti quelli che l'hanno votato nelle primarie, l'hanno sostenuto, anche i suoi stessi comizi durante la campagna elettorale, che non erano, secondo me, da sottovalutare come partecipazione, al punto tale che molti pensavano che avrebbe addirittura potuto vincere. Certo. Quindi tutto questo genere di meccanismo partecipativo è andato perduto completamente ed è finito nel tritacarne della nomenclatura, dell'oligarchia, con i risultati che stiamo vedendo. E anche, come dicevo prima, anche l'addio è un po' al sapore, anche se lui non ha voluto calcare più di tanto la mano sul rancore, sui dissidi interni, eccetera, però tuttavia ha quel sapore lì. Però anche l'addio, se me lo passi, Guido, ha avuto ancora, secondo me, ha goduto ancora di quella ossessione tanto criticata, e dalla quale per esempio Obama si è sempre tenuto bene alla larga, no? del Berlusconi centrale, no? Del Berlusconi protagonista. In fondo, sì, anche in questo addio abbiamo sentito parlare tantissimo, forse anche un po' fuori luogo, di Berlusconi. È stato praticamente il pendolo attorno al quale le dimissioni di Veltroni si sono consumate, non certo in questo seguendo l'esempio di Obama, che invece con la spinta bipartisan, sì, tentativi di armonia, andava in questo in un'altra strada, impercorribile evidentemente in Italia. Sì, appunto, il problema è, tra l'altro, Berlusconi, che non era mai nominato durante la campagna elettorale in maniera, secondo me, anche a tratti un po' ridicola, certo, e adesso diventa poi il protagonista anche dei problemi che sono tutti interni invece al Partito Democratico, e la sua incapacità di essere diventato qualcosa, appunto, di nuovo, e di e un'apertura di nuovi orizzonti per la politica italiana. Quindi anche la giornata di oggi, il suo discorso non è stato secondo me male, il no, discorso certo, di Veltroni, è stato un discorso anche nobile in alcuni tratti, profondo, certo. E tuttavia il modo, anche la formula escogitata di rivolgersi ai giornalisti, però al tempo stesso erano in sala i massimi dirigenti del partito, e però i giornalisti che non potevano nemmeno porre delle domande, un format un po' strano anche di comunicazione. Ci sono degli aspetti che probabilmente sono marginali. Senti, lasciamoci un po' alla Domenico Modugno, cioè riflettendo su quella letterina di pochi giorni fa, no? In cui Obama e Veltroni, insomma, un messaggio di Obama a Veltroni, sembrava ci fosse, come dire, una potesse intravedere, sì, un'unità di intenti, qualche cosa, come direbbe, non so, Domenico Modugno o qualcun altro, polvere ormai, no? Che dici? Sì, oddio, quella lettera probabilmente non sì, era un ciclostile, cioè. Sì, un po' ciclostilata, e tuttavia aveva anche un valore, perché c'erano anche delle parole. Sì, peccato, perché probabilmente ci poteva essere qualcosa di più che non una cosa di, appunto, puramente formale, come accade in queste circostanze. Ma se ci fosse stato un vero Partito Democratico, una grande tenda, come si dice in America, per quando si definisce il Partito Democratico, la capacità che tante anime diverse possano convivere sotto la stessa tenda, questo sarebbe possibile anche il Partito Democratico, se ci fosse un leader capace, appunto, di tenere tutto insieme. Insomma, questo è il problema. Va bene, grazie molto a Guido Molteto. Vi ricordo ancora il titolo del suo libro, che è Barack Obama, la rockstar della politica americana. Sulle gesta invece di Barack Obama delle ultime ore, la famosa firma a Denver e il sito connesso dal quale si può seguire in diretta dove vanno a finire i soldi, ne parliamo attorno a 45, quando tratteremo le ultime notizie, che sono altri grandi personaggi in circolazione, ma soprattutto subito dopo la musica. Siete voi a dire la vostra su questo parallelismo forse impossibile Obama-Veltroni. Working on a Dream, no? Recita il pezzo che più elettorale, post-elettorale non si può, di Bruce Springsteen, che però suona invece un po' più sinistro se inquadrato in ambientazione, no, nazionale italiana. Qui resta veramente Working on a Dream, cioè si resta a livello di sogni per quello che riguarda Veltroni, almeno per adesso. Noi abbiamo pubblicato su Facebook due inviti oggi a partecipare alle discussioni. Il primo riguarda proprio le dimissioni del capo del Partito Democratico. Recitava Le meste dimissioni del leader Veltroni, del PD Veltroni, che a 50 anni suonati ha appiattito il suo programma politico sulla vana imitazione, quello di Barack Obama, pone interrogativi. Primo, l'obamismo è destinato al fiasco, in salsa italiana, è un'impronta non esportabile, gli Obama nostrani non hanno capito qualcosa di importante e se sì, che cosa? E adesso andiamo a sentire che cosa ci avete risposto. Hai lavorato oggi con le letterine? Sì, oggi ho perso mezza giornata, ma ormai non ce l'ho più la sera per controllare Facebook. No, sono molto felice di vedere questo pullulare di pareri, di commenti. Oggi direi quasi tutti sferzanti. Bene, vediamo. Allora, Alessandro, esordisce, cercare paralleli tra Obama e Veltroni è come mettere in parallelo un marziano ed un venusiano, nessun punto di contatto tra i due. Il Dan, tra l'altro, sulle SMS 349-238-6666, anche lui fa un paragone, dice Magic Johnson, Daniele Cavaliero, parlando di basket, insomma, ci siamo in termini calcistici, lo lascio a te magari. Maradona e qualcun altro, non lo va so. Bene. Poi c'è Cristian. Maradona e adesso sto... qualche giocatore italiano di buona fattura, insomma. Carrozziere. Vabbè, Cristian va giù pesante, eccolo impietoso, non esistono Obama italiani, semplicemente a Veltroni è sempre piaciuto il suo stile, lo stile di Obama, ma non ha mai avuto né gli attributi né le idee per essere come lui. Poi c'è Alessandro che invece fa un'analisi politica fine, sottile, anche perfida per certi versi, perché dice penso che Obama non abbia uno come D'Alema vicino che gli rema contro. Vediamo, vicino. Questo la grossa. È un tema, sì, certo. Giacomo ci va anche lui, come dire, con il macete, dice guardare la differenza tra Barack e Walter a torso nudo, dice autoesplicativo. Qui andiamo sul pop, no? La versione pop della politica contemporanea. Roberta, yes they can, maybe we can't. Loro forse possono, noi no. Walter si è invischiato nella restaurazione della DC e la patata bollente gli si è rivoltata contro. Giulio, scimmiottare non significa agire. Mauro, sto elaborando il lutto, credo nel Partito Democratico e non è un lapsus. Al di là delle qualità della leadership, sia la lotta interna a giocare contro. Allora, Luigi Calabrese, molto concreto, dice Obama ha vinto, Veltroni ha perso, questa mi sembra una prima chiara differenza. Poi dice l'originale ha proposte concrete sul sociale, sulla politica estera, persino quella industriale, mentre l'imitatore, cioè Veltroni, ha mancato di determinazione e di proposte ben definite. Ha imitato Yes We Can, ma l'ha tradotto con vorrei ma non posso. Poi allora... c'è Adlai... Posso vado? Vai. Con la proposta del PD è rimasta al guado per salvare la capra catto comunista con i cavoli di un rinnovamento delle regole e dei metodi della rappresentanza politica. Risultato, un programma politico percepito come intenti soltanto. Dunque, Emiliano, Gippi e Sabina, come dire, li salutiamo, ma insomma ci sono andati anche loro proprio pesantucci, sostengono che il paragone non è presupponibile. Alex scrive, il problema di Veltroni è stata la statura dell'avversario politico. Questa è una battuta, però anche questa. Bella per fare opposizione in Italia bisogna usare toni più forti. Pietro scrive un lungo intervento di cui il senso centrale è: ma davvero qualcuno pensava che Veltroni potesse essere l'Obama De Noantri? Ma per favore, dice Pietro. Luigi Francesco scrive anche lui un lunghissimo intervento. Credo che gli Stati Uniti abbiano una cultura e soprattutto una storia dove i discorsi politici e le enunciazioni ideali di principio hanno anche un riscontro nella realtà e nei comportamenti. Poi Dario, non credo sia un problema di obamismo, è che in Italia proprio non siamo capaci quando si tratta di fare sul serio. C'è un Ettore interessante, affezionato, che ci scrive da Davenport, l'abbiamo segnalato anche ieri, dice Obama continua ad avere un contatto costante con la gente negli Stati Uniti, mentre Veltroni, come tutti i politici italiani, una volta eletto sparisce e compare solo alle riunioni di partito. Poi tra le battute più sferzanti c'è quella di Giuseppe Jordan, che dice più che Obamoni, visto il circo equestre che è il PD, direi piuttosto Baracconi. Accidenti, è interessante capire qual è il punto di vista, mi sembra di una compattezza quasi senza precedenti su un argomento che poi coinvolge le persone al punto di aver voglia di mettersi lì a perdere mezz'ora o un quarto d'ora per scrivere una mail, ed è un segno di sfiducia nel tentativo di entrare in un solco di comunicazione, di stile della politica evidentemente irripetibile. Stefano dice Obama e l'obamismo non c'entrano tubo, il problema è che ci vuole un vero leader. Noi qui in Italia abbiamo solo un vero leader che, ahimè, sta a destra. Lucina, Veltroni sogna di essere Obama e questo certo non l'ha aiutato. In comune, secondo me, hanno poco niente. Valentina è estremamente, come dire, molto localisticamente sintetica. Dice: il pesce puzza dalla capa. Ma ne abbiamo cercati quelli favorevoli, ma non c'erano proprio. No, ce ne sono tanti altri. Francesco: secondo me gli Obama nostrani non hanno capito che in Italia abbiamo un regime. Monica: come tutte le imitazioni finiscono sulle bancarelle del mercato. È un modo malinconico di liquidare evidentemente una ispirazione, ripeto, solo per quello che riguarda comunque il possibile tentativo, non dico di imitazione, non dico di ricalco, diciamo di ispirazione, che a lungo, soprattutto in campagna elettorale, ha contraddistinto il nascente Partito Democratico qua italiano, tricolore, con quello di là a stelle e strisce. Tra poco arriva Nancy Pelosi, I temi che abbiamo messo in orbita oggi erano due, perché due erano le questioni centrali che volevamo seguire. Di una ne abbiamo parlato nella prima parte del programma, questo parallelismo un po' zoppo tra Barack Obama e Walter Veltroni. Il secondo era così, una vostra intuizione, una vostra, come dire, piccola visione sul imminente incontro che poi ha avuto regolarmente luogo tra Nancy Pelosi, la terza carica degli Stati Uniti d'America, in visita in questi giorni in Italia, la speaker della Camera dei Rappresentanti, e Papa Benedetto XVI. Noi vi abbiamo scritto più o meno questo per avere delle vostre indicazioni: l'ardente cattolica, ardente pro-abortista, ardente paladina dei diritti gay Nancy Pelosi incontra Benedetto XVI, si mettono a confronto questo atteggiamento pro-choice, anche pro-ricerca sulle staminali, per dirne un'altra, della nuova amministrazione americana, e la visione severa del soglio pontificio su questi temi. Vi abbiamo chiesto se secondo voi è questione di baciamano, di benedizione, oppure ci si può aspettare messaggi più chiari. Ecco cosa avete risposto. Federico ha detto: prego Dio che il Papa pensi solo alle anime e a tutto il resto pensi la Pelosi, che è più attuale. Roberta dice: Nancy non le manderà a dire a nessuno e voglio proprio vedere cosa risponderà il Papa tedesco. Giulio: sarà una visita con inchini, scambi di doni, frasi di rito, hanno visioni troppo distanti. Sandro: potrebbe essere enunciata una sorta di vecchia dottrina Monroe sulle scelte americane. Mauro, credo che il Santo Padre abbia alleanze più influenti e risalenti nel tempo e le metterà in campo. Paride, siamo noi italiani a dare eccessivo peso alla Chiesa Cattolica. Roberto, chissà se scioglieranno il ghiaccio discutendo di Sanremo, questa mi piace. Sabina, nel mondo conservatore protezionista clericale è già una gran mossa mandare una donna a discutere. Stefano, sarà solo una questione di baciamani. Germana, penso che l'incontro non sarà neutro o formale o di cortesia, ma che soprattutto non mancherà, Benedetto, di caldeggiare fortemente provvedimenti in linea con la sua visione. Rosario, Nancy non ha titolo politico per entrare nel merito. Luca, svaligiamo il Vaticano e risolviamo la crisi economica mondiale. Una proposta così un po' come non politicamente corretta. L'Unix dice 10-1 che non si toccheranno temi scottanti. Come è andata? Ne discutiamo, perché dovrebbe essere dall'altra parte del telefono, con un sincero amico, ovvero Filippo Di Giacomo, sacerdote, giornalista, conduttore qui su Radio 24 de Il Cielo in una frase. Ciao Filippo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E sottoponiamo alla tua così considerazione poi quello che è il, devo dire, laconico resoconto di questo incontro, che penso che da parte non tanto dei sostenitori di Nancy Pelosi, ma quanto dei sostenitori di ciò che Nancy Pelosi dall'altra parte dell'oceano e un pochino anche da questa parte dell'oceano ormai incarna, cioè questo spirito radical vagamente anni 60 di stampo americano che sta conoscendo una specie di piccola seconda primavera. Ebbene, sembrerebbe che Papa Ratzinger abbia concesso a Nancy Pelosi in totale 15 minuti. Il comunicato della sala stampa della Santa Sede dice che però il Papa in quei 15 minuti ha parlato piuttosto chiaro, non se l'è fatte mandare a dire, ha detto: ha colto l'occasione per illustrare che la legge morale naturale e il costante insegnamento della Chiesa sulla dignità della vita umana dal concepimento alla morte naturale impongano a tutti i cattolici, specialmente ai legislatori, ai giuristi, ai responsabili del bene comune della società, di cooperare con tutti gli uomini e le donne in buona volontà per promuovere un ordinamento giuridico giusto, inteso a proteggere la vita umana in ogni suo momento. Caro Filippo, in pratica Nancy Pelosi davanti a un discorsetto siffatto può essere stata solo zitta, perché lei pensa esattamente il contrario, quindi diciamo che Benedetto XVI nell'occasione ha preso posizione con una chiarezza, insomma, invidiabile. Che dici? Beh, che intanto il catechismo al Papa Nancy Pelosi non poteva farglielo, diciamo così. Quello che stupisce è che quello che tu hai appena letto è una nota diplomatica di estrema durezza, certo. Forse la più dura di quelle che abbiamo letto, diciamo, durante la gestione della sala stampa da parte di Federico Lombardi, e qui sembra uscita direttamente dalla segreteria di Stato. In genere sono, diciamo, note diplomatiche che hanno delle formule abbastanza consolidate, tipo durante il cordiale colloquio. Qui questa volta non si va dritti al punto, però io credo che forse tentiamo di ragionare due minuti su un piccolo contesto che ci porta fuori da questo strano messianismo obaniano che anche stamattina abbiamo visto ventilare da Veltroni, come se noi vivessimo negli Stati Uniti, certo. E diciamo è come se il mondo dovesse forse essere immagine e somiglianza degli Stati Uniti. Poi, se poi vogliamo giocare la carta, ma se i partiti democratici a quel gioco fanno sì, vabbè, allora se vogliamo giocare questa carta dobbiamo giocarla fino in fondo, perché Nancy Pelosi è la speaker di una camera, di una, diciamo così, di una rappresentanza parlamentare che negli Stati Uniti d'America attualmente, quindi nel Senato e nella Camera che legifererà durante la presidenza di Obama, ha un gruppo, diciamo, di deputati, di senatori, quello cattolico, che raggiunge il 30%, mm-hmm. È il gruppo, diciamo così, confessionalmente più alto. All'epoca del presidente Kennedy questo gruppo non raggiungeva neanche il 10%. Con Obama i protestanti si attestano sul 27%. Anche conto che il 70% dei cittadini USA, diciamo così, vanno a messa, a culto religioso durante la domenica. Aspetta, mi ha detto niente. Come dicevo inizialmente, è proprio un'ardente cattolica che, per l'appunto, lei si dichiara ardente cattolica, sì, che va dal Papa Non tutti la pensano come lei. Cioè, pensare che i cattolici degli Stati Uniti siano tutti come Nancy Pelosi, cioè su quel 30% di cattolici che stanno in Parlamento, Nancy Pelosi rappresenta, diciamo così, la sua posizione. La radical, certo. Ci sono invece delle posizioni che sono delle posizioni molto, molto... E oltretutto è importante sapere che solo due senatori su tutto il totale negli Stati Uniti dichiarano di non avere un convincimento religioso che, diciamo così, di cui certo, tengono certo, conto. Certo. Quindi è all'interno di questo contesto, se c'è una partita che il cattolicesimo non può perdere, è quella di avere, diciamo, una identità precisa, perché non è che poi viene Nancy Pelosi e tutti quanti. Ora, questo viene detto continuamente dall'episcopato americano, perché si è a lungo discusso sul fatto che l'episcopato americano, quando si è spostato sul tradizionalmente quello cattolico democratico, quando si è spostato sull'asse repubblicano, ha avuto un'influenza. È importante anche lo spostamento che durante la campagna elettorale l'elettorato cattolico ha avuto di nuovo sull'asse democratico, però non dimentichiamo che negli Stati Uniti, diciamo così, i cattolici fanno parte del mito delle origini, sono tra i più attenti esegeti dei testi fondativi degli Stati Uniti, per cui in realtà dentro il Parlamento americano c'è un gruppo che compone il 30% di deputati e senatori cattolici che non hanno dato la rappresentanza del proprio credo religioso neanche a Nancy Pelosi, per cui Nancy Pelosi, che viene con una posizione sua totalmente discorde da ciò che nell'insieme cattolicesimo americano si dice, si riceve una lezione e viene ripetuta esattamente. Ma io vorrei, abbiamo ancora un minuto, Filippo, ma vorrei però appunto proprio su questa, come dire, su questo intento programmatico di questo intervento che tu per prima hai definito duro, aggiungere un piccolo particolare che trapela dalle agenzie, ovvero una piccola gaffe commessa da Radio Vaticana, che avrebbe pubblicato la nota, questa nota dai termini piuttosto decisi, prima ancora che avvenisse l'incontro tra il pontefice e la Pelosi, in un certo senso attestando, dimostrando così che era proprio intenzione approfittare di questa occasione per mandare un messaggio chiaro. Il messaggio è stato che il CTV non ha mandato neanche una telecamera, non ha permesso neanche un fotografo, quindi vuol dire che i cattolici degli Stati Uniti non avranno nessuna, tra virgolette, foto di Nancy è vero anche questo. Io vorrei anche dire un'altra cosa, forse uscendo sempre fuori da quello che è un po' il messianismo baniano che, diciamo così, riceviamo tramite gli organi di stampa. Il grande problema che portò Bush ad un certo punto, prima Reagan e poi Bush, a stoppare i finanziamenti alle agenzie americane che praticano il controllo delle nascite nei paesi del terzo mondo, si era concentrato sulle sterilizzazioni forzate e non tanto sull'aborto e il controllo delle nascite. Cioè, forse il problema etico che si agita intorno a queste questioni non è tanto il pro-choice un po' intesa all'occidentale, e l'influenza anche su delle politiche che per tanti versi, visti con gli occhi del terzo mondo, e questa è una chiesa terzo mondiale ormai, forse a volte hanno delle colorazioni che, se fossimo più lucidi, saremmo anche capaci di chiamare come razzistiche. Va bene, grazie dell'intervento a Filippo Di Giacomo. Continua, ma ha lasciato Roma il viaggio italiano di Nancy Pelosi. L'ultima tappa è Napoli, dove andrà a incontrare, a salutare le truppe americane di stanza sul Golfo di Napoli. Però, come dire, la notazione che faceva Filippo, questa assenza anche anche totale di immagini. Noi abbiamo cercato immagini, audio, non c'è nulla di questo incontro, c'è solo questa laconica, dura presa di posizione da parte della Santa Sede a margine di questo incontro, di questi 15 minuti, no? Che anche nella loro pochezza hanno questa laconicità, come dire, la questione, ecco, diciamo così, la questione è molto aperta. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. E ce ne abbiamo parecchie da dirvi, e così approfittiamo di quest'ultimo spazio, cominciando naturalmente dal grande evento economico, politico, economico andato in scena ieri a Denver. I don't want to pretend that today marks the end of our economic problems. Nor does it constitute all of what we're going to have to do to turn our economy. Mette le sue firme sotto l'atto di stanziamento dello stimolo economico, poi dice: guardate, io non pretendo che questa sia la fine dei guai, sarebbe troppo facile, pretendo semplicemente che sia l'inizio della fine dei guai, naturalmente ci auguriamo. Questo ha detto Barack Obama a Denver firmando il famoso atto. Poi Barack Obama presenterà oggi i primi gesti operativi, no, connessi all'atto, nella fattispecie la riduzione, tentativo di ridurre il numero di foreclosure, ovvero di notifiche per mancato rimborso dei mutui, quelle che poi finiscono per trasformarsi in una confisca della casa, dell'immobile, uno stanziamento di 75 miliardi di dollari al riguardo, che consentirà a 9 milioni di americani di tenere per un bavero la propria casa. Sarà presentato fra circa un'ora e mezza, ora italiana, a Mesa in Arizona, e supera i 50 miliardi inizialmente annunciati, a dimostrazione che il problema è fra i centrali negli Stati Uniti. E invece andiamo un attimo sul leggero e, come al solito, occupiamoci di basket, perché siamo dopo lo Star Game, e tra i regali simbolici, comunque ricevuti da Barack Obama, ce n'è uno molto particolare che ci fa piacere citare: Shaquille O'Neal, vecchio macilento, inamovibile, montagna umana, nonché campione, che è stato appena eletto miglior giocatore dello Star Game, gli ha regalato al presidente una scarpa di Barack Obama. Non è una scarpa, è una imbarcazione, più che altro è qualcosa col quale si può fare turismo marino, mezzo metro, qualcosa 58,4 centimetri, se permetti, ben più di mezzo metro. È stata donata Obama quando si sono incrociati all'aeroporto di Phoenix. Allora, noi invece andiamo in Cina con la notizia di quelle che ogni tanto arrivano dal cielo, davvero inquietanti, perché c'è un rapporto ufficiale dei mezzi di informazione sanitaria cinesi che ci fanno sapere che la malattia infettiva che ha procurato il maggior numero di morti in Cina nel 2008 è l'AIDS, con addirittura 7.000 vittime nei primi 9 mesi, quindi il dato è ancora incompleto. Poi, se scaliamo la classifica, al secondo e terzo posto non è che ci tranquillizziamo molto, perché in seconda posizione c'è la tubercolosi e al terzo la rabbia. Il problema è che l'AIDS è una questione irrisolta e che si sta anche espandendo in Cina, perché pare che all'inizio a rischio fossero soprattutto i tossicodipendenti. Adesso invece la principale causa di trasmissione del virus sono i rapporti sessuali non protetti. Tra l'altro il nostro Saro Capozzo in più occasioni ci ha raccontato di storie ancora più inquietanti, con interi paesi in quarantena, inaccessibili in Cina. Scarsa informazione. E poi so che per ottenere, per esempio, il visto di lavoro in Cina bisogna sottoporsi a delle qualificatissime, lunghissime analisi mediche, compreso anche l'AIDS. Se sei sieropositivo non puoi ottenere il visto d'ingresso per lavoro in Cina. Insomma, vi dicevo di questo sito, e se siete appassionati di cose americane, o se semplicemente volete vedere come si fa a capire che succede dopo che vengono messi in gioco quasi 800 miliardi di dollari, ovvero che succede, no? Vabbè, i soldi ci sono, lo Stato li tira fuori, li distribuisce, ma poi dove vanno questi siti? Beh, l'idea di Barack Obama è interessante, noi la utilizzeremo, vi invitiamo a farlo anche a voi e poi magari ne parliamo, perché esiste un sito che si chiama www.recovery.gov, trovate il faccione del Presidente ad aspettare. contattarvi, ma poi trovate un sito interattivo modernissimo, assai efficace, pieno di numeri, di sottomenu e quant'altro, che dovrebbe permetterci di capire dollaro per dollaro dove finiscono i soldi di questo reinvestimento. È entrato in azione adesso, è operativo, vi ricordo ancora www.recovery.gov. Gli americani su questo provano a fare sul serio, a noi non resta che verificare. Allora Stefano, se ti dico Jackie Chan, a cosa pensi? Penso ai popcorn, così, alle serate con gli amici maschi. Più l'attore che cinese, però molto famoso anche ad Hollywood, con tanti film d'azione conditi da queste, anche un po' comici, no? C'è sempre un tono lieve nei suoi film con questi colpi di kung fu pirotecnici. Il nuovo film di Jackie Chan, che è un po' diverso perché pare sia una storia invece molto seria, ambientata a Tokyo, e riguarda un immigrato cinese coinvolto in una guerra di malavita, si chiama Shinyuku Incident, non so come si pronuncia correttamente. Insomma, su questo film è calata la mannaia della censura cinese. Ci sono alcune scene troppo violente. Era stato chiesto al regista Derek Ye di tagliare queste due scene violente, in particolare ce n'è una in cui viene tagliata la mano ad uno dei protagonisti. Il regista ha detto: ci ho provato, ma alla fine questo avrebbe stravolto il senso del film, e quindi non ha fatto i tagli e la censura cinese lo ha vietato. E Chan, che è anche produttore del film, dice di approvare la scelta coraggiosa del regista, che vuole tenere intatto il significato del film. Nel frattempo il 2 aprile c'è la prima del film attesissima ad Hong Kong, che è poi il porto franco dove passano i film che la censura cinese vieta, e poi ci sarà tutto il mercato dei DVD pirata, per chi sicuramente tanti fan cinesi di Jackie Chan vorranno vedere il nuovo film. E c'è burrasca attorno a Facebook, no? Che anche noi utilizziamo a man bassa per rendere più interattivo questo programma. Sembra destinata a sollevare polemiche sulla privacy. Come sapete, la levata di scudi, come sanno almeno quanti di voi frequentano Facebook, di migliaia, decine di migliaia di utenti di Facebook preoccupati per il fatto che le nuove condizioni di uso del popolare sito di social network danno alla società la possibilità di controllare un po' troppe cosette su di noi, le famose informazioni private che peraltro resterebbero all'interno del sito per sempre. C'è molto dibattito. Alla fine è venuto fuori il fondatore di Facebook, che si chiama Mark Zuckerberg, che è intervenuto e che ha spiegato che anche se le modifiche resteranno in vigore, gli utenti controllano le proprie informazioni e le persone con cui le condividono. La precedente versione delle condizioni d'uso dava a Facebook la possibilità di passare agli amici di un utente le sue informazioni, mentre la nuova formula consentirebbe anche di non cancellare dalle pagine degli amici tali informazioni. Insomma, il volto buono di un internet affaristico che poi continua a negare, insomma, poi la finalità di tutta la faccenda, cioè avere informazioni su di noi e farne mercato. Il problema è decidere, ciascuno di noi decide il prezzo, no, di vendere qualche informazione su di sé, ammesso che abbia qualche valore al di là di qualche scocciatura, in cambio poi di uno strumento molto potente. Diciamo, la polemica è tutta qua. Poi, per esempio, sei un po' restio, lo so. No, noi di sicuro non ci faremo gli affari dei centinaia di fan di Jack. No, non andiamo a indagare su di Dio. Ce ne guardo. Però facciamo funzionare i nostri siti, che essendo questi titoli di coda oggi anticipiamo, anzi no, andiamo con ordine. Io sono Stefano Vistolini, lui è Emiliano Enrico, Valerio Rocchetti di là dal vetro, a Milano ci assiste Valeria Bernardi, la mail è jefferson2@radio24.it. I famosi siti Facebook per dialogare con noi si chiama redazione Jefferson 2, che nome più banale non potevamo chiamarlo, non so, Squalo Bianco, se no creavamo ancora più confusione. Vabbè, e Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, la bacheca per partecipare ai nostri focus e ai nostri dibattiti. Il programma va in replica a mezzanotte, è disponibile in podcast anche su Radio 24 nell'archivio, poi tu mi spiegherai meglio come. Anche in MP3 si può riascoltare in tempo reale appena finita. E ogni sigla possibile immaginabile per sentire il vostro Jefferson 2, che dal vivo torna domani alle 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo. Yeah.